realtà, non so più a dirti, conoscevo sì le grundiche di quando le cose erano veramente fatte bene, e l'amplificatore 270 watt dichiarati, e se non sbaglio gira con 10 torce, anche in questo c'ho le casse che si possono staccare però. Sì, sì, no, sono bei prodotti, tre Funken. Io ne avevo preso, anzi non l'ho preso, scemo, me ne sono mangiato le mani, e poi un sintonizzatore per casa. Quando c'era Ingegner Meloni, Audiolina, non so se te lo ricordi, e sono andato col tecnico perché era bello esteticamente, e lui mi diceva prenditi tre Funken che è molto meglio, molto meglio, molto meglio. Alla fine mi ha fidato il tecnico. Poi dopo anni ho capito che c'era ragione, che anche un ricevitore, una bomba. Vecchia generazione come estetica, ma c'aveva un sintonizzatore da poco. Poi c'aveva l'accordatore, non l'accordatore, queste lucette per darti quando eri perfettamente allineato in frequenza, da una parte all'altra diventava verde, c'erano tre led rossi da una parte e tre led rossi dall'altra, come ricentrato diventava verde, e io mamma mia che brutto, cacca, non vai a trovarlo adesso con ricevitore. Ma guarda, ho capito benissimo di cosa stai parlando, cioè pure quello a me, come diceva quel mio amico di Messina, me ne è uscito dalle mani, me ne hanno uscito dalle mani, capito? Erano i tre led a destra, a sinistra, e poi quello del centro sembrava che ci avesse il simbolo del doppio diodo, sbaglio. Sì, sì, sì, no, bellissimo, era, cioè bellissimo adesso che lo so apprezzare, ma quando l'ho visto all'inizio, tu vedevi questi giapponesi tutti belli, slim, sottili, col coso, con le memoriette, tutto quanto, quello era essenziale, proprio il manopolone bello, le cose, cioè tutte le cose essenziali però ergonomiche, diciamo, per fare questa. Mentre il Tecnis, no cacchio, il Tecnis, quando c'è il Tecnis, io ci avevo fissato con Tecnis anche la piazza della Tecnis, c'erano amplificatori, c'avevo tutto Tecnis, i 1200, eccetera. E cacchio, vedi, con la linea di tutto in alluminio ti colpiva di più. Poi delle fughe, mamma mia, delle fughe, ti prendevano in giro, come dice, ma ho comprato un impianto delle casse grounding, vai e prova a sentire le grounding, le casse. Capita, stai piantando. Sì, sì, io ho una coppia di, allora ho una, vabbè, tra una cosa e l'altra, gli impianti non so neanche quanti ne ho, devo essere sincero. Fu così che avevo recuperato un impianto stereo Philips. Questo impianto stereo Philips, classico monoblocco, doppia cassetta, equalizzatore, mi sembra 5 bande, amplificatore 2x30, radio digitale, se non sbaglio aveva il DRC sul top, o ce l'ha incorporato, o no, forse questo ce l'aveva, cioè, si poteva attaccare. Bene, abbinato a questo impianto c'erano due casse timbrate Philips. C'è un problema, se le ho viste uguali Grundig e le ho aperte, praticamente ho una coppia di casse Grundig del 1983 in pratica, e la Philips stava riciclando, ne ho 85 con questi compatti, però erano considerate casse del cazzo, ma ti posso garantire che c'è un laboratorio ad Ulpia, e le ho collegate all'Alpine che ho, che non mi ricordo mai come si chiama, tipo AVIC, che quando lo accendi esce fuori lo schermo, e cavolo come suonano con CD, ma come suonano pure con la radio, le casse suonano da paura, e sono 3D, Sì, alla fine è stata molto sottovalutata. Guardati tutte le meccaniche dei lettori CD, di che cosa sono, chi le fa le migliori meccaniche, sono sempre su base di Philips. Anche Telefunken in casse, che uno senti Telefunken che ti metti a ridere. Qua c'è la serie Professional, quelle nere, con le cupole, come si chiama, con le protezioni tipo bucate, diciamo, no, esterne, c'è una grigliettina bombata fuori, non so se le conosci, quella serie della Telefunken tutta nera, cacchio, sono da paura. Che le vendevano anche amplificati, cioè avevano i led rossi a seconda della potenza che gli dava l'ingresso. Cazzo, quel ragione che ti dicevo ha quel tipo di griglia lì, cioè davanti all'altoparlante c'è la bombatura, no? Poi rimane piatto, c'è l'altoparlante più su e c'è la bombatura, capito? È tutto di quella figlia lì. Sì, sì, no, stiamo parlando, diciamo, gli apparecchi tedeschi dell'epoca, adesso la stanno rifacendo, la Grundig ho visto, Norman, stanno tirando fuori di nuovo i marchi, però non esiste più, sono tutti prodotti cinesi che hanno acquistato il nome, ma la Kai lo stesso, che era un grande marchio di cassette, di registratori, di bobine, eccetera, adesso sta facendo dei prodotti consumer di prezzi allucinati. Io ho preso il televisore qualche anno fa, ridicolo il prezzo, però funzionano più o meno lavatrici, frigoriferi marcati a Kai. Stanno facendo i cinesi di tutto di più, sono prodotti di grande consumo. consumo che hanno, vivono su quel marchio lì. E poi ho visto, da poco ho visto la Grundig, ho detto, mi sa che anche la Grundig e la Normand c'è, adesso è ritornato. No, Roberto, sono marchi, solo il marchio che è rimasto. Tra l'altro non è neanche dello stesso proprietario, perché ce lo vendo ogni tanto. Avevo messo una quadri, se non sbaglio, Daikin, sotto richiesta, perché le multi c'è quasi per evitarle. Il condizionato deve essere monoslitz, è chiaro. Però le forzature me ne ricordo. Infatti una di queste forzature fu questa quadri Daikin, di questa cliente, una bella donna, molto simpatica, mi ha detto, tra l'altro interista, perciò gli ho messo la parabola e Sky a posto a prendere l'infere e basta. Praticamente lei è quella che ha venduto il marchio Amstrad a fratello di Berlusconi, gli ha dato 100.000 euro, capite come funziona? Sì, sì, comprano i marchi e basta, non esiste più, il marchio è morto, deceduto, non esiste più niente, e ti prende il coso e dice, ce l'hai registrato quel marchio lì, dice cosa vuoi, dammi 100.000 euro, e ti prende il marchio e te ne fai quello che vuoi, anche per gli orologi li fanno, tirano fuori, adesso ne è uscita di nuovo la Bulova, cacchio, sta facendo di nuovo orologi, ha detto la Bulova è morta 30 anni fa, cacchio, e c'è di nuovo la Bulova in circolazione. Ma sto cercando una cosa, su, vediamo. Allora, tu hai davanti carta e penna, lo so già, scriviti, e magari su cose che hai già visto su YouTube, RetroTech, scritto Retro e TECH, come canale, qui c'è Technomoan, questo è un altro, e vai a Strugazzi, una piazza della CAI che è un multitape, no aspetta, non il multitape, quella che si faceva l'autorevers con il ribaltamento della cassetta, hai presente? Certo che l'ho presente. Allora adesso parliamo di cose, perché io tra l'altro c'era una piccola stazioncina radio e mi è rimasto tutte le cose. Io ho un registrato della bobina da 26, 4 velocità della Philips, era il topo di gamma che costava una cifra esagerata. E se tu vedi la costruzione, questo pesa 23 kg questo apparecchio, se tu vedi la costruzione di questo apparecchio, solo le cinghie, non parliamo di tutto il resto, perché è tutto digitale, servo assistito, puoi bloccare quando sta camminando, dare il colpettino, cioè indistruttibile, un apparecchio semiprofessionale. Hanno fatto anche registrazioni di dischi abbastanza conosciuti con quell'apparecchio lì, per dirti che non è una cagatina. Quattro tracce, tu devi vedere questa qua la costruzione, le cinghie sono fatte tipo una tela, non sono le classiche cinghie in coso, in gomma, queste sono in tela, cucite o saldate, non so cosa abbiamo fatto. Devi vedere i motori di questa cosa, se tu quando lo fai girare a una certa velocità, siccome li regoli anche la velocità con questo qua, se hai in registrazione la puoi fare da quanto parte, 4,75, 9,5, 18 e 36, le velocità che c'ha, centimetri al secondo. Quando tu stai avvolgendo il nastro, o avvolgendo o riavvolgendolo avanti e indietro, c'è la regolazione di velocità, la puoi fare lento lento, proprio leggero leggero, che vedi proprio poco poco, oppure lo metti a manetta. Quando lo metti a manetta, che girerà non so quanti giri al minuto, se per sbaglio ti avvicini e c'è le bobine in coso, in alluminio, tieni dalle arrudite, è una cosa spaventosa. Cappa, monta motori Studer, monta gli stessi motori che monta il mio, vabbè, questo è un pezzo famoso, è un pezzo di quelli da tenere in salone, e c'erano tutte le case discografiche in esposizione, e qualcuna c'era nella saletta di ascolto e fa girare le bobine. Il Revox B77MK2, ce l'hai presente? E certo ce l'ho presente, era il più venduto in assoluto, penso, nel mondo. Tutto il radio privato utilizzavano i Revox, e sono ottimi prodotti, però ti posso garantire, se tu vedi questo Philips, adesso mi ricordo il modello, era il topo di gamma, e lo paragoni a un coso, a un Revox, non ha niente di meglio, cioè il Revox non c'ha niente di più, anzi per certi versi è anche meglio, per certi cose, a livello di qualità prezzo. Tanta roba di acqua che sta scendendo, il sugar. Cosa ti volevo devo dire. E poi adesso avevo un Akai autoreverso, mi sta la riprendo quello che me l'aveva venduto, ha detto ti do un Akai grosso autoreverso, lo lascia stare, questo non si tocca, è indistruttibile, tu lo tieni 10 anni spento, vai lo accendi, è tutto digitale, le tastiere, c'è la servastitite, qui c'è l'indicatore digitale di coso, dei metri, diciamo, perché sono a centimetri, non a metri, tarato quello lì, no scusa, no a minuti è quello lì, non è a coso, più c'ha quattro tracce, quattro, come si chiama, indicatori ad ago con sotto il led di picco, guarda è eccezionale come ascolto, c'ha una qualità di registrazione da paura. Ecco, ma lo stavo già pensando che era meglio del mio i7-7, alcune cose che mi hai detto, chissà, volevo sfondare forse la FIS, c'era la necessità di passare la Revox capace, perché la FIS ne ha combinato. Sì, molta, guarda l'ampione davanti, praticamente vedo una nuvola bianca, gialla, e non vedo più l'ampione. Aspetta tu. Lo senti il rumore? Lo tira il microfono, però altro. Ti arriva il rumore? Io lo so, io la siamo vicini, poi io ho una verandina dietro che di lì è legno, con le cose tegoli canadesi sotto, quando sbatte di lì già si sente, speriamo che non scarichi qualche fulmine, perché ho messo anche un'antenna nuova, più alta, non più alta, è più lunga di altezza, però è più in basso, abbasso due le antenne, non so se l'hai visto passando. L'ho visto, ma tu non è intervenuto, era entrato e ci è uscito, mi sa. Poveraccio, grazie, l'abbiamo crepato, con questa passione a me mi piglia sangue alla testa e parlare di queste cose mi piglia male, super. Lo so anche io, poi oggi ho detto quando c'è Riccardo un paio di minuti me ne va, poi quando iniziamo a parlare degli argomenti che piacciono a me, guai, se poi parliamo di altre cose, di satelliti, di lì mi si illuminano gli occhi, poi impianti audio, wifi, eccetera eccetera, sono molto molto appassionato, credete ogni tuono. Bubu. E su, ti ha confetto, ti ha trovato un tuono, vabbè, dopo la potenza che se no non ci arrivi. Sì, davvero. Comunque vediamo un po' se c'è qualcuno su 10, dai, anche io adesso vado, domani si trabacca. C'è qualcuno su 10 che vuole entrare, scusate per il monopolio. Però la cosa bella è che io vorrei che entrasse anche altre gente e dessero dei commenti loro. Purtroppo su questi tipi di argomenti poca gente c'è che li si interessa. Capo, anche io conosco poche persone che però che sono appassionate, allora entrano nei particolari, eccetera. Mi piacerebbe che tu conoscessi un amico di Urbia, tale Marco, questo è un po' fissato con un modello di autoradio Pioneer e c'è da averne veramente, da averne veramente tanto, perché comunque ha ragione, è una radio particolare, costa un pochino, per questo è fissato con il controllo dei ritorni, no? E perciò lui praticamente, il suo scopo è riuscire a spostare la voce da quello che ascolta in altezza, giustamente mantenendo ferme le casse, e questo lo sto facendo in macchina. Ora io devo fare una console per utilizzare questa sua autoradio, che ne ha due uguali, a casa, perché vuole stravolgere un attimino l'impianto, logicamente lascerà il T-Amp, logicamente lascerà quel letto di CD Philips che gli ho regalato, che c'ha la meccanica in alluminio, pesa 7 kg la meccanica, la meccanica. Però comunque vuole mettere questa radio. Ed è una persona che una volta che entra nell'argomento, cioè ogni volta ci sentiamo per la fine, Marco ti volevo dire una cosa, 2 minuti, poi quando ti do la chiamata leggo 1 ore 48, 2 ore 04, capito? Cioè iniziamo a perdere tutta la condizione del tempo. Sì, già lo so, sono passioni maledette, dai, ma io il problema mio è che ne ho troppo di passioni, perché se parliamo di altri argomenti che non hanno niente a che vedere di questo, se parliamo di fumetti, io sono appassionato di fumetti, in particolare di Tex, posso stare ore raccontando e spiegando aneddoti, cose strane, perché uno dice io sono collezionista, però io quando faccio una cosa mi piace approfondire, informarmi, di tanto. E se parliamo di Tex, per dire, lo sai quante persone che li vendono, che si occupano di vendita di fumetti, di di cose del genere, che mi venivano a chiedere informazioni a me per dirgli ma come mai questo, quell'altro, qual è quello, c'è una storia su Tex, non so, ci vogliono ore solo a capire come funziona il collezionismo di quel tipo di giornalino. Io sono collezionista in particolare di Tex e di tanti fumetti d'epoca, però Tex in particolare. Poi se vogliamo parlare di campi di orologi, di lì peggio che mai. Gli orologi li ho un po' mollati, è un argomento, io sono nipote di orologiaio, per darti un'idea, ai tempi l'Omega scrisse una lettera a mio nonno per chiedergli la cortesia di poter fare lui l'assistenza Omega in Sardegna, senza tu. Il mio nonno era un paesino disperso alle montagne, però era un orologiaio bravissimo, pensa che di alcuni orologi, che sono i pendoli, i cucù, eccetera, ne fa centinaia, non decine, centinaia, quando gli riportavano magari che ci mancavano pezzi, si ricostruiva le ruote. Però voglio tornare un attimo ai Tex, perché se non sbaglio, dentro alcune scatole di cartone, che sono però sigillate ancora, ci dovrebbero essere un bel po' di Tex in cantina, ma se ne trovo, te ne do? Non credo che c'è pezzi particolari, perché un po' di gente è convinta, da poco è venuto uno, una persona grande, c'ha 70, adesso va per i 73 anni, io c'ho Tex originale, siccome è Tex numero 1, ne hanno fatto 14 edizioni senza considerare queste ultime, vale Tex numero 1 originale con quella autorizzazione numero 478 eccetera, non censurato, ci sono un sacco di particolari per riconoscere il corso. Quando la giudice vai la sciapè, ma mio era 200 lire, sì, ma non c'entra 200 lire, ne esistono 14 versioni di quelli a 200 lire, perché il Tex seconda serie gigante, perché c'è prima serie gigante, che sono 1,29 di lì, io ho il numero 28, che ne hanno fatto 6.000 in tutta Italia, per dirti questo pezzo che c'ho io. L'ho beccato di fortuna, non so neanche io come ho fatto a prenderlo, spillato, perché i primi Tex sono spillati, la serie, prima serie gigante si chiama 1,29, l'hanno fatta soltanto in poche città d'Italia, Milano, Torino, Genova e un'altra città, non mi ricordo se Novara, e ne hanno fatto 6.000 copie e le hanno distribuite nelle edicole principali, per dire, cosa posso dire, a Sassari c'era la stazione, l'edicola dove vendeva di più, a Milano c'è quella del Monte Napoleone, poi a Coso c'è stazione, e mi hanno dato 6.000 copie di questi giornali come preserie per vedere come reagiva il pubblico, perché Tex è nato a strisce, anzi le prime a strisce, e poi c'erano gli Albo d'Oro eccetera eccetera, erano a strisce, e hanno provato a unire le strisce e metterle in un'unica pagina, cioè dire 4 o 5 strisce messe su un unico foglio, e lì è nato il Tex gigante prima serie. Il numero 28 che c'ho io, se tu cerchi su internet, c'è un club di coso, mi aveva mandato il messaggio, se qualcuno di voi ha ancora questo giornale a colori non fotocopiato, ce l'invia, perché nella nostra banca dati non figura, per dirti di cosa stiamo parlando. Io ho il numero 28 originale, perché vabbè, solo originale, non esistono le copie, originale nel senso che lo puoi vedere a colori, e in questa banca dati dove ci sono tutti questi fanatici eccetera, loro non ce l'hanno, ce l'hanno in bianco e nero, per dirti di cosa stiamo parlando. Cavolo, allora ti posso dire che la prima edizione, la prima stampa in assoluto, mio padre ce l'aveva, aveva tutta la serie della prima edizione, ed era rimasta in paese, e si è persa, penso che l'abbiamo buttata. Questo è una cosa di famiglia, tant'è che c'era la mano in bocca, perché mio padre è tirato fuori, e poi ci è rimasto molto fuori casa, molto molto. E un giorno è venuto a mettere a cercare, e non c'era più. Non mi ricordo poi com'era la storia, però ha ordinato, ti ricordi le cassette dell'acqua San Giorgio, dei brick San Giorgio, hai presente? In quelle cassette di cartone gli ha messo una serie di fumetti, ogni fulmine per su al giorno ha fatto, mi ero anche finito qua pronto a parlare. E praticamente li ha messi ordinati lì, li ha girati con dei fogli di cartone, gli acquisti a spago, e ci dovrebbero essere dei Tex, perché mio padre ne aveva un sacco di Tex, Diabolic, roba del genere. Se voi guarda, tanto ci devo andare in cantina e mettere ordine, non sapevo cosa farne sinceramente. Se uno sguardo, se ti piacciono bene, se no gli ridai e finiscono nel cassonetto. No, no, ben volentieri, grazie. Io, vabbè, c'ho una collezione dove tengo i pezzi rari, cioè solo quelli che valgono un po' di soldi, stiamo parlando di anche migliaia di euro, ci sono dei pezzi che valgono anche migliaia di euro, di pezzi particolari, di questi giornalini qua, però bisogna saperli conoscere, perché cacchio, io ti faccio della mano rossa, uno numero uno, mano rossa, 200 lire, originale, no, non è originale, te ne faccio vedere, io non l'ho mai visto davvero, il numero uno originale, come dire, il numero uno originale di Diabolik, anzi quello l'ho visto, però era una mostra, ma il numero uno di Diabolik vale 7.000 euro, l'originale, hanno fatto le coppie, le hanno addirittura con la carta d'epoca rifatte per cercare di smerciarle a Napoli, però il taxi autorizzazione numero 478, numero uno originale, io non l'ho mai visto davvero quel giornalino lì, è una cosa talmente rara, perché poi erano censurati, erano, no scusa, non censurato, perché tu non so se sai come funziona il discorso della censura. Lo so, guarda, lo sguardo adesso, c'è una libreria qua in alto, vuoi la scala, ci sono delle raccolte di stampa e di text in volumi, capito? Cioè, mi sono accorto adesso che Babbo ha coltivato in qualche maniera a collezionarli, gli piacciono, evidentemente gli piacevano, boh. Ce n'è pure qua su, io non, probabilmente non ne ho mai aspetto uno per aprire. I texuni sono quelli, diciamo, quelli non è che hanno grande valore, e quelli che valgono più di tutti sono, vabbè, a parte quelli serie 129 che sono quelli più che hanno mercato, cioè le rarità proprio, ma sono pezzi, sono dalle mosche bianche, e poi ci sono le serie complete di strisce, quelle magari se c'è una serie, per dire, serie Navarico, serie Apache, serie 6N, c'erano per dire 50 numeri, e serie Rossa, serie Aquila, ne hanno fatto decine e decine di quelle strisce, e se c'è la serie completa, per dire, qualche migliaio di euro vale, però averne uno, due o tre non è che valgono più di tanto, possono valere 10-15 euro, ma non hanno mercato, nel senso che trovi da tutte le parti, però se c'hai una serie 1,29, quella che dico io, può valere anche 100.000 euro, una serie 1,29 di Tex, chi ce l'ha non lo so, chi ce la possa avere, nessuno, neanche la Bonelli penso ce l'abbia quella serie. Capo, particolari, queste cose sono fatte così. Non c'è niente da fare, ne rimangono poche, ne hanno fatto poche, ne rimangono ancora di meno, iniziano a prendere valore anche perché non ce ne sono in giro, capito? Questo vale un po' per tutte le cose, a volte uno c'è in mano un pezzo che gli dà un valore così giusto perché magari ha smesso di usarlo, eccetera, o ha smesso di consultarlo, oppure per me non ha messo a in garage da 20 anni e non sa neanche di avere il valore che è in mano. Sì, sì, no, ma bisogna conoscere, dai, io non per vantarmi, su Tex posso dire la mia e posso confrontarmi con tante persone, nel senso so come funziona, ho tutte le valutazioni, le quotazioni, so come fare andare. E poi, non so se hai notato, i primi originali sono spillati, hanno fatto dall'1 al 44, c'è anche un numero 44 di Tex, anche se quello è rarissimo ancora di più, perché si dice sino al 43 li hanno fatti spillati. Che all'interno hanno le spillature. Sì, ho già visto qualcosa, avevo un amico un po' appassionato e aveva qualcosa in mano, ma praticamente avevo una libreria piena di fumetti particolari, comunque si comprava le ristampe, così magari si vedeva la ristampa e non toccava quello originale, cioè io me lo guardavo un po' così, però capisco la passione, quando uno c'ha la passione ci può provare a fare. Cioè io c'ho un amico che lui, adesso non so se esiste ancora Dylan Dog, lui ci comprava Dylan Dog e Mister No, ne comprava due coppie, una coppia la conservava e l'altra se la leggeva in modo che lo potesse piegare, ecco, gli altri ce l'ha tutti conservati, non so se ci sia ancora Dylan Dog, non li ho mai seguiti, non mi piace come Mister No, di Mister No c'ho tutti i primi 15 numeri originali, va bene, le stampe non ne hanno fatto, io poi vado a cercare tutti i numeri 1 di qualunque giornalino che trovo, siccome ne ho centinaia e centinaia di di giornalini, di fumetti, prendo sempre i numeri uno, quando vado a cercarli sempre il numero uno di qualunque cosa, di Mister No, di Hakim, di vabbè Drago numero uno, lasciamo perdere, è un po' raro, però comandante Marco, ci sono dei giornalini che prendono un sacco di valore, c'ho dei pezzi che valgono un po' di soldini, ci ho fatto un affare da poco da un amico, quello non li conosceva, non era il campo suo, ne ho preso una diecina di questi che valgono di media 800 euro l'uno, ne ho pure regalato al padre di mio cognato, che lui è grande appassionato lo stesso, gli ho detto guardi a Natale, due Natali fa, ho detto gli voglio fare un regalo, gli ho dato il numero 13 di comandante Marchi che vale 600 euro, a me glielo ho pagati 10 euro, quello non sapeva niente, non li conosceva, però sono giornalini rari questi. Infatti Robo, io mi auguro che in cantina mia ci sia qualcosa di interessante, ma non per chiederti 10 euro, lo vedi tu quello che ne puoi fare, se c'è valore ti ripeto, se no se è carta per riempire il cassonetto, lo riempio il cassonetto. Devo andare su, spostare la scala e aprire, portare un paio di forbici così li apro per vedere cosa c'è dentro. Sono ricevute, anche perché mio padre è una persona che teneva tutto, ho trovato il contratto d'acquisto della Fiat 126 con la coppia Master che non ha mai usato, ho trovato i DPN di auto che abbiamo avuto, ogni cosa, il contrattino quando acquisti che devi parlare di optional, cioè presente. Lia, però adesso io sto pensando che tuo padre, il cognome tuo fa il nome di un coso di un presidente, dimmi, conferma. Kappa. Tuo padre me lo ricordo molto molto bene, ci avevate anche un Austin Allegro, qualcosa del genere. Esatto, Roberto, proprio lui, stavo detto che le mie macchine le conoscevi tutte. Farina, il più caro, il migliore. Vabbè, quello non si può dire, non sta meglio di casa. Comunque l'ho conosciuto bene, grande persona tuo babbo, me lo ricordo benissimo, eccetera eccetera, poi era molto scrupoloso, una persona molto educata, nel senso non di quelli strafottenti che venivano a stiracchiare il prete, era una persona molto accorta, tanto e pagava. Cappa Roberto, stavo parlando di mio padre, vedi? No, ma ne ha portato diverse di macchine. Non sono sicuro, però ci veniva anche con tua mamma, così. sì, si porta le mani come ha preso a volte. No, vabbè, sono persone di altri tempi. Proprio oggi stiamo parlando di certe persone, è venuto un discorso con una persona che io ho una stima immonda, purtroppo gli è morto il figlio, un'attività molto ma molto antica, nel senso dal 52 che esisteva, persone squisite di un'educazione, purtroppo ha mollato tutto, doveva lasciare tutto al figlio e quando l'anno scorso gli è morto il figlio ha mollato tutto, dice cosa faccio io, sono già grandi queste persone qua, e quando senti parlare di persone bene, la cosa bella è quando tu senti parlare bene delle persone, non dire parlare male, perché a parlare male è facilissimo, però parlare bene di una persona, e di tuo padre posso parlarne bene, non perché ci sei tu, adesso che mi hai detto il cognome è una persona, diciamo, di una grande persona, e così oggi è venuto il discorso di un'altra persona, di altre generazioni stiamo parlando, non sono delle generazioni nostre, perché io mi considero di un'altra generazione rispetto a loro, e così i miei figli sono una generazione diversa da quella che potrebbe essere la mia, e per quello stiamo parlando di persone che ci hanno dei rispetti per le cose, altrui, l'educazione, il saluto, quando ti vedevano si tolgono il cappello, pur essendo molto più grande di te. Sì, c'è tutta una serie di personaggi, diciamo, perché ormai dobbiamo dire personaggi, no? Prima era una generazione e ora sono mosche bianche, e lui faceva parte proprio di tutti i personaggi, un modo di prendere le cose, uno stile. Guarda, non è che me lo sto vantando perché era babbo, poi tra l'altro mio padre ci siamo frequentati poco perché io era piccolino, ero già in giro per il mondo, perciò non ci siamo frequentati molto. Ti posso dire che questo autoradio che c'è sul banco è una cosa particolare, per me è stato un momento in cui mio padre mi ha educato in una certa maniera. Quando lui è salito a casa il giorno che io ero sui finali di questa radio, era nella camera in cui ti sto parlando in questo momento, e dove sono seduto io, su una sedia davanti alla stazione, al tempo c'era una scrivania che adesso uso un po' come bancone qua, quando, fino a quando non finirò di farmi laboratorio di più, e quando sono a casa comunque ho bisogno di un piccolo laboratorio, se non altro per liberarmi la testa, no? Bene, io ero chinato sulla radio, col coppetto tolto, che stavo misurando cercando di capire se l'ho fatto veramente l'anno o no. Lui è stato a casa, ha aperto la porta, mi ha visto lì chinato sulla radio aperta, mi ha guardato, non ha detto una parola e ha chiuso la porta. Cioè, il potere di uno che ti educa tutti i 10 anni, lui l'ha condensato in uno sguardo e mi ha formato. Ci credi? E certo, è così, magari c'è con noto piccolo ignorante, ma lo so, è fatto, è rotto, ma a voce. Lui ha capito che stavi cercando di sistemarla la cosa, di trovare la soluzione, ecco, detto, questa è la migliore soluzione. Lui un attimo, poveraccio, ha capito che la sua amata autoradio, perché l'adorava questa auto, non ce n'era, suonava troppo bene, e suona bene adesso, figurati, dopo 40 anni. L'autoradio era in fumo, perciò che probabilmente non avrebbe più rivista questa radio, no? Ha capito che non l'ho rotta apposta, perché mai gli sarei permesso di rompere una cosa apposta a mio padre, e ha capito che stavo cercando di caparne piede, e possibilmente prima che arrivasse lui, perciò quando lui è arrivato ha anche capito che non era il momento di arrivare, e magari se non avesse dato più tempo io avrei pure capito cos'è successo. Ma è tutto insieme, uno sguardo, conta fino a 3, 1, 2, 3, ha chiuso la porta, tutte queste cose, boom, mi hanno scoppiato la testa. Ho guardato l'orario, mi pare che è un po' tardino, io domani devo trabaccare. Dai, grazie della chiacchierata, sempre interessante, soprattutto quando sono argomenti piacevoli che mi esaltano, dai. Saluto a te e avremo modo di sentire, adesso mi ho registrato il tuo numero, magari ci sentiamo per telefono, magari poi se capita ci vediamo in verticale o passa quando vuoi in officina. Saluto gli eventuali amici, che penso ce ne siano tanti in ascolto, perché abbiamo parlato di argomenti di tutte le varietà, è molto, credo, abbastanza interessante. Dai, ti saluto di nuovo, correti da parte mia, ciao Fabio. Ciao Roberto, sempre un piacere, sì, è il mio numero, quando vuoi chiamo, un messaggio, meglio messaggio così, per la serie sono io, capito? Perché se vedo il numero magari non ti chiamo, mi perdo, cioè non ti richiamo magari, e non torno in contatto. Niente, buonanotte, mi dico anche l'orologio, complimenti per l'orario che hai fatto stanotte, olimpico della radio. Ci sentiamo domani sicuramente, magari su 10. Buonanotte Roberto.